Dall'atteggiamento dei Cotard e di Charlie mi resi conto che la cosa nel piccolo clan non era oggetto del minimo dubbio. Mi parve che da parte loro ci fosse della malignità. «Ma andiamo, non avete visto com'era turbato quando avete parlato di lei?» riprese Charlie, che amava mostrarsi esperto di donne e parlava del sentimento che si ispirano con naturalezza, come se fosse quello che lui stesso provava abitualmente. Ma un certo tono di equivoca paternità nei confronti di tutti i giovani, malgrado l'amore esclusivo che lo legava a Morel, bastò a smentire i punti di vista da donnaiolo che veniva manifestando. «Oh, questi ragazzi!» aggiunse con voce acuta, melliflua e cadenzata. «Bisogna insegnargli tutto. Sono innocenti come bambini appena nati. Non sono in grado d'accorgersi quando un uomo è innamorato d'una donna. Alla vostra età ero un po' più dritto io», aggiunse, già che amava usare le espressioni gergali dei teppisti, forse perché gli piacevano, forse per non avere l'aria, evitandole, di confessare che frequentava individui per i quali essi costituivano il vocabolario corrente. Alcuni giorni dopo dovetti arrendermi all'evidenza e riconoscere che Brichot era innamorato della marchesa. Sfortunatamente accettò parecchi inviti a colazione a casa sua. Madame Verdurin giudicò che era tempo di intimare l'alt. A prescindere dall'utilità che un intervento rivestiva ai suoi occhi per la politica del piccolo nucleo, la padrona ricavava da spiegazioni siffatte e dai drammi che esse scatenavano un piacere sempre più vivo, di quelli che l'ozio fa nascere nella borghesia non meno che nel mondo aristocratico. Fu un giorno di grande emozione alla Raspellière quando si vide Madame Verdurin sparire per un'ora con Brichot, al quale, come si seppe poi, disse che Madame de Cambremer si prendeva gioco di lui, che era diventato la favola del suo salotto, che rischiava di disonorare la propria vecchiaia e compromettere la propria posizione nell'insegnamento. Giunse sino a parlargli in termini toccanti della lavandaia con cui viveva a Parigi e della loro figlioletta. La padrona la spuntò. Brichot smise di andare a Féterne, ma ne ebbe una pena tale che per 2 giorni si credette che avrebbe perso completamente la vista, e la sua malattia, comunque, fece un balzo in avanti che restò acquisito. Intanto i Cambremer, infuriati con Morel, invitarono una volta di proposito il signor di Charlus, ma senza di lui. Non ricevendo risposta dal barone, temettero d'aver commesso una gaffe e, ritenendo il rancore un cattivo consigliere, scrissero un po' tardivamente a Morel. Servilismo che fece sorridere Charlus, dandogli una prova del suo potere. «Risponderete per entrambi che accetto», disse a Morel. Arrivato il giorno del pranzo, nel salone di Féterne era iniziata l'attesa. I Cambremer, in realtà, davano quel pranzo per il fiorfiore della mondanità, vale a dire per i signori Ferré. Ma avevano una tal paura di dispiacere a Charlus che, pur avendo conosciuto i Ferré tramite il signor di Chevregny, Madame de Cambremer si sentì male quando il giorno del pranzo vide quest'ultimo arrivare in visita a Féterne. Inventarono tutte le scuse per rimandarlo a Beausoleil al più presto, non abbastanza tuttavia perché nel cortile non incrociasse i Ferré, tanto sconvolti di vederlo messo alla porta quanto lui vergognoso di esserlo. Ma costasse quel che costasse, i Cambremer volevano risparmiare a Charlus la vista del signor di Chevregny, giudicandolo provinciale per quelle sfumature cui non si bada in famiglia, mentre se ne tiene conto rispetto agli estranei, che sono per l'appunto gli unici che non se ne accorgerebbero. Dispiace, infatti, mostrare loro i parenti rimasti quali noi ci siamo sforzati di non essere più. Quanto ai Ferré, erano al massimo grado quelli che si è soliti definire delle persone veramente bene. Agli occhi di chi li qualificava così, anche i Guermantes, i Rohan e molti altri erano persone veramente bene, ma il loro nome dispensava dal dirlo. Poiché non tutti erano al corrente della grande nascita della madre di Madame Ferré e della cerchia straordinariamente esclusiva che lei e suo marito frequentavano, quando li si nominava, si aggiungeva sempre, a mo' di spiegazione, che erano quanto di meglio ci fosse. Era il loro nome oscuro a indurli a una sorta di altero riserbo? Sta di fatto che i Ferré rifiutavano di vedere persone che un La Tremoille avrebbe frequentato. C'era voluta la reputazione di regina della costa, di cui la vecchia marchesa di Cambremer godeva in riva alla Manica, perché i Ferré venissero ogni anno a una delle sue mattinée. Stavolta erano invitati a pranzo e si contava molto sull'effetto che avrebbe prodotto su di loro la presenza del signor di Charlus. Venne annunciato, con discrezione, che il barone era nel novero dei commensali. Per combinazione, Madame Ferré non lo conosceva. Madame de Cambremer ne provò una viva soddisfazione e sul suo volto errò il sorriso del chimico che sta per combinare fra loro per la prima volta due sostanze particolarmente importanti. Si aprì la porta e Madame de Cambremer fu lì lì per svenire vedendo Morel entrare solo. Come un segretario di dicastero incaricato di porgere le scuse del ministro, come una sposa morganatica che esprime il rammarico del principe bloccato da un'indisposizione, così soleva fare Madame de Clichamp per il duca d'Aumale, Morel disse con la massima disinvoltura: «Il barone non potrà venire. Non sta molto bene, almeno credo che sia per questo. È una settimana che non lo vedo», aggiunse, gettando nella costernazione, anche con queste ultime parole, Madame de Cambremer, la quale aveva assicurato ai Ferré che Morel vedeva Charlus a ogni ora del giorno. I Cambremer diedero ad intendere che l'assenza del barone offrisse un'attrattiva supplementare al loro ricevimento e, senza farsi sentire da Morel, dicevano agli invitati: «Faremo a meno di lui, non è vero? Ci sarà solo da guadagnarci». Ma erano furiosi, sospettarono un complotto organizzato da Madame Verdurin e, botta risposta, quando la padrona l'invitò di nuovo alla Raspellière, il signor di Cambremer, non potendo rinunciare al piacere di rivedere la sua casa e di ritrovarsi fra i membri del piccolo clan, ci andò, ma da solo, dicendo che la marchesa era desolata, ma il medico le aveva prescritto di non uscire. Con questa semipresenza, i Cambremer credettero di dare una lezione a Charlus e al tempo stesso dimostrare ai Verdurin come non si considerassero tenuti nei loro confronti, che a una cortesia limitata, così come un tempo le principesse del sangue riaccompagnavano le duchesse, ma solo fino a metà della seconda camera. In capo a qualche settimana erano quasi in rotta. Il signor di Cambremer me ne fornì la seguente spiegazione: «Vi dirò che con Charlus era difficile. È talmente dreyfusista». «Ma no, sì invece. In ogni caso lo è suo cugino, il principe di Guermont. Sono molto criticati per questo. Ho dei parenti attentissimi a queste cose. Non posso frequentare persone del genere, mi guasterei con tutta la mia famiglia. Tanto meglio che il principe di Guermont sia dreyfusista», intervenne Madame de Cambremer, «visto che lo è anche Saint-Luc, il quale, a quanto si dice, sposa sua nipote. Forse è proprio questa la ragione del matrimonio». «Su, via, cara, non dite che Saint-Luc, al quale vogliamo tanto bene, è dreyfusista. Non bisogna diffondere alla leggera affermazioni del genere. Lo mettereste in una bella luce al reggimento». «Lo è stato, ma non lo è più», disse al signor di Cambremer. «Quanto al suo matrimonio con Mademoiselle de Guermont Brassac, risponde a verità? Non si parla d'altro. Del resto, se non lo sapete voi, ma se vi ripeto che l'ha detto a me personalmente di essere dreyfusista», insistette Madame de Cambremer. «D'altronde è scusabile, i Guermont per metà sono tedeschi». «Quanto ai Guermont di Rue de Varenne potete anche dire per intero», precisò Cancan. «Ma Saint-Luc è un altro paio di maniche. Anche se ha tutta una parentela tedesca, suo padre rivendicava prima d'ogni altro il suo titolo di aristocratico francese. Nel 1871 ha ripreso servizio ed è stato ucciso in guerra nel più brillante dei modi. Per quanto io sia di vedute molto rigide sull'argomento, non bisogna esagerare né in un senso né nell'altro. In medio, virtus, non riesco a ricordarmelo. È una frase che dice sempre Cotard. Ha sempre la battuta giusta lui. Voi però dovreste avere qui un petit Larousse. Per evitare di pronunciarsi sulla citazione latina e abbandonare l'argomento Saint-Loup, a proposito del quale suo marito sembrava rimproverarle una certa mancanza di tatto, Madame de Cambremer portò il discorso sulla padrona, essendo ancor più necessario spiegare la sua rottura con loro. «Abbiamo affittato volentieri la Raspellière a Madame Verdurin», cominciò la marchesa, «solo che lei, assieme alla casa e a tutto ciò che è riuscita a ottenere, il godimento del prato, i vecchi arazzi, tutte cose che non erano affatto comprese nel contratto, è convinta ad avere in più anche il diritto d'essere in relazione con noi. Sono cose assolutamente separate. Il nostro torto è di non aver fatto tutto, molto semplicemente, tramite un amministratore o un'agenzia. A Féterne non ha nessuna importanza, ma mi immagino già la faccia di mia zia de Chunville se vedesse capitare a uno dei miei pomeriggi la vecchia Verdurin con i suoi capelli scarruffati. Quanto al signor di Charlus, lui, è chiaro, conosce gente veramente bene, ma ne conosce anche di veramente male. Le chiesi chi? Alle mie insistenze finì con rispondere. Si dice che fosse lui a mantenere un certo signor Moreau, non ricordo bene, nulla che vedere naturalmente con Morelle il violinista, aggiunse arrossendo. Quando mi sono resa conto che Madame Verdurin, per il fatto d'essere nostra affittuaria sulla Manica, si figurava ad aver acquisito il diritto di farmi visita a Parigi, ho capito che bisognava troncare.